GMG is so musical. Say exclusive XXX Saro. Bella Bina, bella tutti gli ascoltatori. Accendi quel PC, Radio XXX, con gli argomenti più piccanti di chiamare i siti. Ma quale siti? Il mio paesino è un culo. E a luna di notte in giro, cazzo, non vedi più nessuno. La serata assicurata, il cazzeggio l'ha inventata. In diretta smarronando, bella vita è la puntata. Io l'ascolto mattino, la notte e la sera. Il messaggio che arriva dopo mi collego e si ride finché non si respira. E non rompere cazzo, e manda un altro link. Che manda un altro link, e non rompere il cazzo, che rompiamo un nuovo pezzo XXX. E non romperci il cazzo, e manda un altro link, manda sto cazzo di link. E non romperci il cazzo, manda la foto smarrone targata XXX. E mandate ste cazzo di foto, ste cazzo di link, supportate Radio XXX dalla Riviera. Yes.